se potesti obliar si presto il mio amor, la mia fede, il tuo dovere. Ma non più, non più mai sarà che io ti rivecca il ciel che giusto punirà l'error tuo. Io misero e tradito abbandonato amante, fuggirò questo cielo, lascerò queste arene, lasso che fia di me, che fia se io parto. A vederne la fronte, vo che lo sappi almeno il mio fiero tormento. Non altro Ogni Thank you. Thank you.

Thank you. che tempo ormai cambiamo il tempio dove sull'aria preparate il grande sacrificio si consumi e rendasi l'onor ai sommi dei qui del nostro gioir devesi il merto andi a Meliso da se lieti auspici sperarmi giova per favor dei nubi il cielo ogni or sereno e la greggia lieta e il praticel più a me thank you. che tardi più. Vedi gli allegri cori di ninfe e di pastori attonti per accrescer la pompa a tuoi trionfi. Andromeda, tra noi non vecchi più di Megova, immirarti fatta sposa di Perseo e fuor d'affanni. Che i gravi miei danni quanta pietà ti avesti, e mi ricordo creder non ti posso, bugiardo adorator di mia fortuna. Abbiam Perseo al tempio e vi si chiudo in presenza dei lumi, il vuoto, il giorno. Chiudasi quindi nasca l'augurio fortunato d'un amore tra noi sempre beato. Nel mio tormento ti tolga dal goder. più bello il godimento, ne mi addormento, ne mi addormento di colla dal godere.

听众朋友，以上大家所欣赏到的是维瓦尔第歌剧《安德鲁姆达·里贝尔卡》全剧的录音，由克里马斯、肯奇、贝尔罗夫、鲁奇卡尔演唱，维也纳巴洛克乐团演出，马尔康指挥。下面请您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道的精彩节目。